da 87 e 900, sono le ore 10:32, puntuali più o meno, insomma, cominciamo lo spazio redazionale di questa mattina, una mattinata in cui, come abbiamo già annunciato prima, intendiamo occuparci così in linea di massima di pensioni, no? Un discorso di cui ci siamo occupati le settimane precedenti, perché chiaramente le pensioni sono sotto attacco nel mirino della manovra economica. Sui ceti più deboli si fanno chiaramente questo tipo di manovre economiche, e chi più di loro, come i pensionati, e chiaramente, insomma, in generale abbiamo visto come si sia proceduto a riformare il settore della previdenza, perlomeno da tre o quattro punti di vista, tutti molto importanti. Tanto per cominciare, si è abolita la pensione di anzianità, di fatto, perché si sono abolite le cosiddette quote. Si è proceduto, diciamo, a portare tutto il sistema pensionistico sul cosiddetto contributivo, e in più, insomma, c'è l'innalzamento dell'età pensionabile e la questione poi del blocco delle rivalutazioni. Non bastava tutto ciò al governo Monti per fare cassa, non bastava, perché bisognava introdurre un ulteriore provvedimento nella manovra del 4 dicembre, quindi praticamente ne parliamo oggi a distanza di un mese esatto. Era inserita un punto che praticamente ha dato il via libera alla soppressione di EMPALS e INPDAP e al trasferimento delle funzioni di questi importanti enti previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, cioè all'INPS. Quindi si sopprimono EMPALS e INPDAP, rispettivamente gli istituti che appunto regolavano l'istituto previdenziale rispetto ai lavoratori dello spettacolo per l'EMPALS e rispetto ai lavoratori statali per l'INPDAP. Questi due enti vengono soppressi, le loro funzioni trasferite all'INPS, insieme alle loro funzioni, quindi anche i patrimoni, tutti i fondi, in teoria anche il personale, ma su questo ci sono chiaramente dei punti di contrasto. Chiaramente, insomma, il personale in esubero invece è minacciato di essere posto così in uscita, in mobilità, senza reintegro. Di questo comunque ce ne occupiamo man mano che arriviamo a tutti quanti i problemi. Quindi questa è l'intenzione del governo, di sopprimere questi enti. Noi oggi ce ne occupiamo perché comunque è un argomento così che sembra andare incontro a un'unica esigenza, che è quella sbandierata a destra e manca, e cioè il fatto che attraverso la soppressione di questi enti si, per così dire, arriverebbe a una sorta di snellimento del funzionamento di questo gigante elefantiaco, cioè il settore della previdenza, e dunque a favore di una riduzione dei costi generali che sopporta questo settore. Addirittura le cifre che vengono menzionate sono esorbitanti, perché si parla di un risparmio complessivo che arriverebbe addirittura ai 200 milioni di euro entro il 2014, 20 milioni subito nel 2012 e poi man mano anche a 50 milioni, 100 milioni nel 2014 in tutto, quindi circa 200 milioni da recuperare. Allora, innanzitutto noi ci chiediamo, è proprio così? Cioè, l'interesse prioritario su cui si fonda la necessità di dover accorpare gli istituti di previdenza, tra cui quello più importante, l'INPDAP, aveva un bilancio di circa 170 miliardi di euro. Ora, insomma, il Super INPS si troverà a ereditare un bilancio ancora superiore, intorno ai 400 miliardi di euro, una cosa, insomma, astronomica. Quindi ci chiediamo, innanzitutto, produrrà questi effetti taumaturgici sulle casse dello Stato questo tipo di operazione? Ma soprattutto, quali sono i risvolti reali che sottendono la stessa operazione. Chiaramente, insomma, ne parliamo qui in studio con dei lavoratori dell'INPDAP, con Ettore che già conoscete, con Massimo che è venuto qui a trovarci. Ci sono anche altri aspetti che comunque non vogliamo tralasciare. Quello dei licenziamenti lo abbiamo accennato. Già diciamo subito che sono state garantite le posizioni dirigenziali, però rispetto a chi guidava i due enti previdenziali disciolti, cioè EMPALS e INPDAP, non c'è invece affatto sicurezza riguardo il futuro occupazionale dei lavoratori, i quali già tra l'altro erano considerati in un certo senso un ramo secco all'interno di questo ente, perché erano già diciamo esposti fuori dalla pianta organica. E oltre poi a questo c'è tutto il discorso aperto relativo alla previdenza privata. Scopo, crediamo noi, prioritario di questo tipo di operazione è proprio quella di aprire, insomma, di costruire le condizioni affinché la previdenza pubblica sia sempre più svuotata di senso e che invece l'intero settore della previdenza passi nelle mani dei privati attraverso le coperture pensionistiche a carattere complementare. Già ci hanno provato, insomma, con tutte le varie forme di assicurazione, la cosiddetta previdenza integrativa e complementare, lo hanno fatto anche con lo scippo del TFR qualche anno fa, un'operazione tra l'altro che non andò proprio benissimo per lor signori, ma oggi ci riprovano e troviamo poi gli stessi protagonisti, perché un economista di grido era allora la Fornero, che si sbracciava per raccomandarci quanto i fondi pensione fossero diciamo, no, il settore più sicuro in cui investire la nostra liquidazione. Oggi la troviamo ai posti di comando a tessere diciamo così tutto il mosaico di questa importante manovra economica, che include anche questa questione del super IMS. Io direi di iniziare a dibatterne, le presentazioni le abbiamo fatte, non so se volevi aggiungere qualche ulteriore specifica, Ettore, altrimenti cederei la parola già a Massimo. Sì, hai introdotto abbastanza bene, ogni punto che hai toccato va approfondito, perché ci sono specificità diverse per ogni punto. L'intenzione non sono quelle dichiarate, ma ci sono cose recondite che cercheremo di dirle, di spiegarle. Però io darei subito la parola a Massimo, perché Massimo in questo periodo sta seguendo con molta più frequenza, più attivo, ha messo in campo tutta una serie di iniziative già di contestazione, di mobilitazione, c'ha il polso meglio del mio. Io ho una finestra più limitata di informazione in quanto lavoratore, in quanto dipendente, insomma, però lui ha un ruolo più protagonista, più attivo, e sta, può sicuramente specificare più. Perciò gli do la parola a Massimo, mano a mano ci integriamo. Se Massimo non ha esperienza radiofonica, qui interrompiamo, domandiamo, perciò devi sapere che non è una cosa. E poi l'altra questione, che noi faremo delle corrispondenze di altri lavoratori dell'INPDAP nelle varie sedi, perché l'iniziativa di conflitto è su tutta Italia, e è aperto il microfono, cioè agli ascoltatori. Noi come posti lavoro abbiamo veicolato quel suo numero di telefono, che è lo 06 49 17 50, se ci sono lavoratori oppure iscritti all'Impeta, perché qui la fregatura non è solo ai dipendenti, ma la fregatura sarà per gli iscritti all'Impeta, che poi cercheremo di spiegarla, perché si dovrebbero mobilitare soprattutto anche gli iscritti, perché la cosa grave di tutta questa operazione è che è stato dichiarato ente inutile un ente che non sono 170 miliardi di bilancio, ma 170 miliardi sono i costi di pensione che paga, ma il bilancio è molto più alto, all'INPS non so 400 miliardi, ma 750, detto da Mastro Pasqua, e io ho visto che equivale a un bilancio dello Stato medio grande, cioè lo stesso bilancio dello Stato spagnolo, in mano a un ente solo. Dato a questo presidente Mastro Pasqua, con 24 incarichi, ovviamente tutti remunerati, lavorerà un'ora al giorno per ogni incarico. Quando pia, Mastro Pasqua, per ogni incarico, e quando dorme questo? Se fa 24 incarichi e ci lavora un'ora al giorno per ogni incarico, cioè questo tanto per rendersi conto dove cazzo siamo messi, no? Ecco perché dico ci dobbiamo preoccupare tutti, al di là di quello che dicono. Poi la Fornero si rende conto delle cazzate che fa e si mette a piangere come la Madonnina di Civitavecchia. La parola a Massimo. Allora, buongiorno a tutti intanto. Allora, gli argomenti che nella presentazione praticamente sono stati affrontati un po' tutti. Allora, io penso che forse è bene chiarire un primo passaggio. L'INPDAP, parlo in particolare dell'INPDAP ovviamente perché è il posto dove lavoro e dove abbiamo iniziato a fare delle iniziative di lotta importanti rispetto al provvedimento che è stato fatto, è stato assunto con il decreto, il cosiddetto decreto Salva Italia dal governo Monti. L'INPDAP è il secondo ente previdenziale italiano, gestisce fra iscritti e pensionati, gestisce circa, cura l'attività, svolge attività per circa 7 milioni di italiani e appunto, come diceva Ettore, ha un bilancio che supera i 170 miliardi di euro. Non fa soltanto attività pensionistica, fa anche attività fra virgolette sociali, cioè nel senso gestisce il fondo del credito, un fondo stabilito per legge dedicato ai dipendenti, a tutti i dipendenti pubblici, è allargato qualche tempo fa a tutti i dipendenti pubblici perché prima c'era un limite e ogni dipendente pubblico versa lo 0,35 dalla propria busta paga per finanziare questo fondo del credito che poi consente di erogare mutui, prestiti, attività sociali, borse di studio, master, assistenza agli anziani e ai giovani. Ma poi avremo occasione, ci ritorniamo sull'argomento e lo spieghiamo meglio. Insieme allo 0,35 dei dipendenti, qualche tempo fa, qualche anno fa, ci fu anche l'operazione per cui anche ai pensionati dipendenti pubblici veniva concessa la possibilità di accedere a queste attività del prestito e dei mutui versando lo 0,15 delle loro pensioni. Quindi, scusa Massimo, questo per fate capire. L'altra cosa che per esempio non lo tocchiamo mai, che sembra una cavolata, c'è la trattenuta che paghiamo per noi la chiamiamo la cassa mortuaria, no? Tutti i lavoratori versano dalla propria busta paga, c'è una trattenuta che mi sembra che sia lo zero qualche cosa, insomma non è molti soldi, saranno 3-4 euro mediamente a dipendente, che questi soldi vengono dati dei sussidi eventualmente un dipendente muore in servizio, gli danno un contributo per i funerali. C'è un'anticipazione pari. E questo se tu calcoli, se è anche basso, sul montante, sul montante retributivo dei dipendenti pubblici, quanto sono? Quanti miliardi sono? Eppure che fosse lo 0,3%, 0,5%, sono molti soldi che entrano, ecco perché il bilancio non è 170 milioni, perché sono tre casse, cassa credito, cassa previdenza e questa cassa qui, che finiscono poi dentro quest'altro calderone, che fine gli fanno fare, poi ne spiegheremo dopo. No, avevo accennato a questa cosa del credito, perché diciamo può essere utile per capire che qual è l'operazione che si sta facendo con la chiusura, con la soppressione dell'INPDAP. Negli anni passati, e le parole a volte fanno la differenza, negli anni passati, già con il governo Prodi nel 2006, si affrontò la questione appunto della riorganizzazione degli enti previdenziali e si parlava non di soppressione ma di una sorta di coabitazione. Si mettevano assieme gli enti previdenziali e si pensava a un nuovo soggetto. I nomi erano i più vari, l'IPU, l'Istituto di Previdenza Generale, l'IPG, insomma un soggetto unico con un'unica gestione, in cui però rimanevano presenti, separate e distinte, le attività del, diciamo oggi INPS, cioè dedicate ai dipendenti del privato, e quelle invece dell'INPS dedicate ai dipendenti del lavoro pubblico. Scusa Massimo, sempre tu non perdere mai il filo, no? Perché è un'operazione di questo tipo già avvenuta, tanto è vero, non l'hanno sciolto. L'INPDAI è una cassa autonoma all'interno dell'INPS. Di dirigenti d'azienda, sì. Di dirigenti d'azienda. È una cassa autonoma che ha il fondo previdenziale pubblico, gli costa oltre 2 miliardi l'anno per pareggiare i conti, perché là si annidano le famose pensioni d'oro. Anche all'INPDAP, però lì ce ne stanno molto di più, perché sono solo d'oro là le pensioni, perché... E i lavoratori sfruttati da questi dirigenti per tutta la vita, maltrattati, poi gli devono mettere pure i soldi per garantirgli la pensione. Dato che stava per fallire proprio per questa situazione, non l'hanno dichiarato inutile, non l'hanno fatto fallire, in maniera autonoma è incorporato all'INPS, ma con una gestione autonoma, c'hanno il loro direttore generale, il loro presidente e via dicendo. Invece l'INPDAP l'hanno sciolto, hanno dichiarato, salvaguardato le dirigenze, però in un modo pure umiliante, perché l'hanno declassati da direttori generali a dirigenti generali. È declassato in termini di prestigio, ma è pure di soldi, perché un direttore generale sta a 350.000 euro l'anno, un dirigente generale a 180.000 euro l'anno, no? No. Cioè, voglio dire, sì, non, per far capire che non versiamo troppe lacrime, no, per niente. Anzi, se licenziano, forse ci guadagnano, forse se fanno quei risparmi. Ecco, torniamo a questa cosa che forse è più interessante un po' per tutti, per far capire appunto che cosa si fa con questa operazione. Con questa operazione, che viene spacciata come un'operazione di riassetto per ottenere quei risparmi che si dicevano all'inizio, i 20 milioni il primo anno, 50 il secondo, 100 il terzo. Queste cose sono tutte quante delle pie illusioni, poi cercheremo anche di spiegare il perché, mentre invece è molto più vero, è molto più importante che con il nuovo soggetto si metta sotto un'unica direzione, si consegni nelle mani di un'unica persona appunto un capitale che sfiora i 700 miliardi di euro. Io sostengo da tempo che una persona di questo genere potrà, o meglio, il Presidente della Repubblica, con tutto il rispetto che si può avere per il Presidente della Repubblica, dovrà chiedere udienza e aspettare l'ok da parte del Presidente dell'INPS, perché una persona che gestisce 700 miliardi di euro è più importante del Presidente della Repubblica, più importante del Ministro del Tesoro, avrà, insomma, gestisce un capitale così enorme da influenzare anche l'attività economica del Paese, l'intera attività economica del Paese. L'importanza della soppressione dell'INPDAP quindi sta dietro a queste cifre. L'importanza della soppressione dell'INPDAP e non del riassetto all'interno di un ente in cui ancora previdenza pubblica e previdenza privata sarebbero state mantenute in piedi, sta nel fatto che l'INPDAP gestiva, oltre alla previdenza, l'attività previdenziale pubblica, gestiva due cose che sono rilevantissime. Una, quella che abbiamo accennato, che è quella del credito, sono circa 2 miliardi l'anno derivanti dallo 0,35 dei dipendenti pubblici, del versamento dei dipendenti pubblici, e lo 0,15 dei pensionati, e in più un'altra partita che è tutta legata al patrimonio immobiliare che era stato già cartolarizzato con Tremonti negli anni della finanza creativa, e che comunque ha fatto nascere il primo fondo immobiliare chiuso ad apporto pubblico, che si chiama FIMIT, oggi Idea FIMIT. L'INPDAP, insieme all'EMPALS, tanto bene, INPDAP ed EMPALS avevano delle partecipazioni azionarie, cioè è una società quotata in borsa. L'INPDAP e l'INPS hanno una partecipazione azionaria di questa società, l'altra credo che ce l'abbia la De Agostini. Una partecipazione di maggioranza da De Agostini, INPDAP ed EMPALS una quota di minoranza. Fatto sta che in questo modo, essendo quotato in borsa, il presidente una volta il presidente della FIMIT era il presidente dell'INPDAP, oggi il presidente della FIMIT sarà il presidente Mastrapasqua, così aggiungerà il 27° incarico a quelli che diceva prima Ettore, così l'INPS potrà entrare in borsa. L'INPS prima non aveva la possibilità di entrare in borsa, di stare in borsa, oggi acquisendo le attività dell'INPDAP, tra cui la FIMIT, riesce ad entrare in borsa e naturalmente partendo da una situazione, come dicevamo prima, di un bilancio di 700 miliardi di euro. Questa è una prima, questa quindi una prima cosa importante da chiarire. L'INPS entra in borsa grazie all'INPDAP, l'INPS recupera 2 miliardi di attività creditizia, un'attività creditizia che l'INPDAP garantiva ai dipendenti pubblici e ai pensionati ad un tasso decisamente concorrenziale rispetto a quello che oggi, soprattutto oggi, praticano le borse. Le banche. L'INPDAP garantisce prestiti per praticando interessi che si aggirano intorno al 3-3,5% sui mutui, massimo 4 sui mutui. Le banche oggi meno oggi oltre al 6 vanno, superano abbondantemente il 6 e non te lo danno e neanche te lo danno. Quindi l'INPDAP era concorrenziale e strumento di calmieratrice, no? Calmieratore, no? Soggetto calmieratore del mercato dell'attività creditizia, soprattutto in riferimento ai mutui. Si vede che questa cosa ha dato fastidio alle banche. Ma c'è un certo passera che si avvolla dentro questo governo, no? Non è un caso. Le banche da tempo avevano provato a mettere le mani sull'attività creditizia dell'INPDAP, si erano formulate varie ipotesi, non mi dilungo su questa partita perché rischiamo di annoiare. Fatto sta che oggi non sappiamo se l'INPS, e questo interessa appunto i dipendenti pubblici, non i dipendenti dell'INPDAP, ma tutti i dipendenti pubblici, tutti i lavoratori della pubblica amministrazione iscritti alle casse dell'INPDAP, domani non sappiamo se l'attività creditizia verrà svolta dall'INPS come la faceva l'INPDAP, oppure l'INPS cederà, passerà la mano a qualche soggetto privato, cioè a qualche banca che a questo punto avrà fatto un boccone e avrà fatto fuori dal cosiddetto mercato chi gli faceva la concorrenza a tassi agevolati. Quindi patrimonio immobiliare con la FIMIT e l'entrata in borsa, credito agevolato e quindi concorrenza rispetto al credito, l'ultimo tassello che io sostengo da tempo sia negli interessi del Super IMS, e non è un caso, se si leggono bene alcune dichiarazioni fatte dal Presidente, fatte nei giornali dal Presidente Mastrapasqua, fatte anche, sappiamo, dai dirigenti dell'IMS, l'altro interesse enorme che c'è su questa partita è quello dei sistemi informatici. L'INPDAP da solo, relazione della Corte dei Conti, bilancio 2009, aveva speso nell'arco di 5 anni, 6 anni, dal 2005 al 2009, nel giro di 5 anni, aveva speso circa 500 milioni di euro. Oggi questi sistemi informatici, su cui naturalmente c'era ancora bisogno di lavorare perché comunque non si era riusciti a ottenere il risultato migliore, il funzionamento migliore, e qualche difficoltà gli stessi dipendenti, gli stessi lavoratori dell'INPDAP l'avevano fatta emergere bloccando per un giorno, facendo tutti quanti assieme il cosiddetto blackout informatico per una giornata per protestare contro il cattivo funzionamento del sistema rispetto alle spese che ci sono state, che erano state fatte. Fatto sta che oggi il sistema dell'INPDAP dovrà essere messo, come posso dire, in linea, dovrà dialogare col sistema INPS, che significa buttare 500 milioni di euro dell'INPDAP e significa spendere non si sa quali risorse per poter mettere assieme i due sistemi, quello dell'INPS e quello dell'INPDAP, che non dialogano oggi. Che per ora non dialoga. E non stiamo parlando ancora, abbiamo lasciato fuori da questa discussione l'EMPALS con i suoi sistemi, con le sue procedure e quant'altro. Quindi è chiaro quali sono gli interessi, che non sono certi risparmi dei 20, dei 50 e dei 100 milioni che qualcuno aveva propagandato per far passare questa manovra. Insomma, mi sembra chiaro e le ultime parole trovano da questo punto di vista piena conferma, il fatto che quindi il risparmio non può essere il motivo che ha animato e ispirato, insomma, questa operazione. Se tutto va bene, 170, queste sono le cifre di cui si parla sui giornali, fino al 2014 sarebbe il risparmio complessivo ottenuto sul versante dello snellimento delle procedure, quindi del funzionamento complessivo. Questo è quello che si dice, ma in realtà probabilmente già 500 vanno in fumo per il lavoro di informatizzazione dei dati che era stato precedentemente svolto da INPDAP e che ora, insomma, per interfacciarsi con INPS bisognerà evidentemente spenderne altrettanti. Quindi, insomma, tanto i soldi ce li mettiamo noi, mica, insomma, ce li mette qualcun altro. Ma la cosa che più mi ha allarmato, però, da quello che è stato detto è questa cosa che INPS entra in borsa. Questa chiaramente, insomma, è la cosa che immagino abbia colpito anche chi è all'ascolto. Che vuol dire che entra in borsa? Vuol dire, insomma, che comunque già abbiamo detto il bilancio di Super INPS toccherà somme assolutamente quasi indicibili. E si paventano comunque anche le problematiche relative all'esposizione che ha questo istituto rispetto alle varie consorterie politiche, ai potentati economici, chiaramente. Ma se poi si dice anche che attraverso questa manovra questo colosso della previdenza entrerà in borsa, che vuol dire che i risparmi dei lavoratori e delle lavoratrici di questo paese sono a rischio anche per questo motivo? Non so se sono a rischio, non sono un esperto di borsa, non so dire per quello che sarà il futuro. So che in questo modo l'INPS, che prima non aveva la possibilità di sedere in un soggetto quotato in borsa, oggi lo può fare, e Mastro Pasqua aggiungerà l'ennesimo incarico, appunto, come presidente. Se si mantiene la stessa formula utilizzata con l'INPDAP, il presidente dell'INPDAP, Crescimbeni, cederà il posto al presidente dell'INPS, che appunto entrerà in borsa grazie alla FIMIT, che è quotata, che è il fondo immobiliare. Una cosa un po' storica per capire, proprio per dar forza, perché noi veniamo già da un'esperienza. L'INPDAP è un ente che ha 17 anni, è nato nel 1994, nasce perché i vari enti che poi furono accorpati dentro l'INPDAP, gli istituti di previdenza, l'EMPAS, l'INADEL, e poi questa cassa mortuaria, come si chiamava, ma sono scordata, e questi quattro enti vengono sciolti con decreto d'urgenza perché la Guardia di Finanza e la Polizia hanno arrestato tutti, insomma sono venuti là, hanno preso tutti i consigli di amministrazione perché furono beccati col sorcio in bocca che rubavano da tutte le parti. Il primo atto da questo ente, in questa unificazione, che noi all'epoca l'avevamo pure denunciato, insomma ci abbiamo fatto molte azioni, pure pesanti, a me mi ha creato qualche problema di sicurezza fisica, queste iniziative, la prima cosa che hanno fatto è quello di cuccasse il patrimonio, perché questi enti avevano più di 100.000 unità immobiliari in giro per l'Italia, 70 miliardi per un valore di 70 miliardi, che erano i fondi dei lavoratori messi da parte, cioè era la riserva tecnica per garantire le pensioni. Hanno venduto con la speculazione, svenduto, perché molti, insomma, uno di quelli che parla molto, per esempio Cazzola, è riuscito a comprarsi al Colosseo, sempre lì, quella zona, a 80.000 euro un appartamento, capito? Assieme a Cazzola ce ne stanno altri presidenti di tribunali e via dicendo. Insomma, queste operazioni un po'. Sì, pure Brunetta ha preso un appartamento, la Polverini, insomma, voi vedete. Si sono rubati questo patrimonio che era riserva tecnica, ma i soldi incassati, l'equivalente ai 70 miliardi, non sono finiti nelle casse per continuare a garantire e pagare le pensioni, no, se le prese il tesoro per pagare il debito pubblico. E non finito qui, le quote d'ammortamento dei prestiti del famoso credito che noi paghiamo, il Tesoro con un decreto le incamera a Tesoro e le mette in bilancio dello Stato. Ma quelli sarebbero i soldi che stanno ritornando indietro dei prestiti che l'Inpede ha fatto. Sì, diciamola meglio allora, questa cosa, con più precisione. Allora, nel 2000, fra il 2003 e il 2004, cioè questa è l'operazione Tremonti fa una seconda operazione di cartolarizzazione, che è l'operazione di cartolarizzazione dei crediti. SCIP è la cartolarizzazione del patrimonio, quello di cui parlava prima Ettore. Poi nel 2003 Tremonti fa un'altra operazione, che è quella di cartolarizzare i crediti attivi, quello dello 0,35 del fondo credito di cui parlavamo prima, soldi versati dalle buste paga, prelevate dalle buste paga dei lavoratori, quindi non è neanche la contribuzione previdenziale, è ulteriore contributo che versa il dipendente pubblico ai fini di questo sistema. A fondo sistema perduto, non è che te lo istituiscono. A fondo perduto, sistema solidaristico per finanziare il credito. Arriva Tremonti nel 2003 e dice: ok, a dicembre tutti i crediti attivi che ha l'Inpdap me li prendo io, li trasferisce alla banca, alle banche, parliamo di 4,5 miliardi di euro, le banche si prendono un agio di 500 milioni e trasferiscono al Tesoro i 4 miliardi che gli avanzano. Così il Tesoro si ritrova 4 miliardi che sono i contributi, non sono contributi previdenziali, sono un prelievo dalla busta paga dei lavoratori, e lo mette a coprire il bilancio dello Stato, il buco del bilancio dello Stato. Però ci sta sfuggendo un altro importante elemento di cui abbiamo parlato fin dall'inizio, che è quello che sta dentro a tutte queste cose. Il patrimonio immobiliare, la cartolizzazione del patrimonio immobiliare, la vendita del patrimonio immobiliare ha significato il primo passo verso la chiusura dell'Inpdap, verso la chiusura di un soggetto pubblico che gestisce l'attività pensionistica e previdenziale. Il progetto è un progetto che nasce in quegli anni, nel 92, fra il 92 e il 94. In contemporanea parte ai pensioni integrative. Le pensioni integrative, non è un caso che in quello stesso momento si partono le prime pensioni, si parla per la prima volta dei fondi pensioni e della possibilità di trasferire il TFR nei fondi pensioni per garantirsi un sistema previdenziale, vista la manovra Dini, che fa il governo Dini nel 95, facendo passare il calcolo pensionistico dal sistema retributivo al contributivo, e quindi anche in quest'ottica, cioè questo è un progetto che viene da lontano, oggi si arriva al primo risultato. Si può raccontare così facilmente per far capire a tutti questa cosa senza troppe complicazioni. Ieri c'erano due soggetti pubblici che facevano attività pensionistiche, l'INPS e l'Inpdap. Lo spazio pubblico era coperto da due soggetti. Oggi l'Inpdap non c'è più, quindi il soggetto pubblico si è ritirato, ne rimane uno solo, gestirà quello che abbiamo detto, con interessi enormi da far marciare insieme agli interessi politici e clientelari che tutti quanti sappiamo e conosciamo. Ma il problema fondamentale è che il soggetto pubblico viene ridimensionato. Se l'Inpdap chiude, significa che lo spazio pubblico si riduce, e se si riduce è per lasciare il campo aperto ad un altro soggetto, che sono quello dei fondi pensione della previdenza complementare. Non è un caso che qualche mese fa le organizzazioni sindacali tradizionali, possiamo citarle, CGL, CISL, UIL, CISA, UGL, sono andati dal notaio a istituire per realizzare il primo fondo dei dipendenti pubblici, ministeri, agenzie fiscali, Inpdap e altri, il primo fondo pubblico che si chiama Sirio, dei dipendenti pubblici. Allora, chiude l'Inpdap e nasce Sirio. Non è un caso la coincidenza anche nei tempi. Poi, per passare pure all'altro argomento, che è quello della perdita di posti di lavoro, mettiamo magari uno stacco musicale, a proseguire su questo ragionamento, mi era venuta in mente una cosa, ma mi è sfuggita un'altra volta, ecco, arrivano forse delle telefonate, e che volevi integrare su questa questione. Ah, ecco, che questo ente gestisce le buonuscite direttamente. Guarda, che, adesso lo chiediamo più tardi. Che sono i fondi. Fondi che l'Inps, per esempio, i TFR non ce l'ha, cioè perché si hanno in mano ai datori di lavoro. Invece noi, essendo l'ente che gestisce il pubblico, i TFR ce l'abbiamo in mano noi, perciò nel bilancio c'è anche questo altro tesoro che ci mette in mano all'Inps, che possono essere queste risorse da giocare sui fondi integrativi pensione. Come si sta predisponendo? Ecco perché l'operazione, poi quando parliamo di 700 miliardi di bilancio, quando poi ci inseriamo pure quest'altro elemento che sono le buonuscite dei dipendenti pubblici, che sono nei bilanci dell'INPDAP, entrano dentro l'INPDAP, cioè non sono come i settori privati che l'accumulano ma le tengono da parte i datori di lavoro, nel senso che le tengono i padroni, no? Questi soldi ce l'abbiamo in gestione noi, tant'è vero la vecchia Empals faceva solamente per gli interessi che maturavano una serie di attività sociali agli iscritti, insomma, quelli che ai dipendenti pubblici, no? E colonie venivano finanziati con questa roba. Buona parte del patrimonio immobiliare dell'Empas era stato realizzato grazie agli interessi che si producevano con le buone uscite. Con le buone uscite. Che allora venivano chiamate buone uscite. Tutta questa montagna di denaro finisce in mano al super presidente, che questo viene da Marte, perché a Marte non sono 24 ore la giornata, mi sembra che di 48 o 70 quante sono il giorno di Marte, e lui è un marziano, sta lì apposta, l'hanno preso, l'hanno portato, la NASA ce l'ha portato in Italia questo mega presidente, che poi pensiamo che il presidente Monti, poi chi comanda sono questi personaggi che ovviamente poi andranno in pensione, no? E pieranno quelle pensioni favolose di 30.000, 40.000, 50.000 euro al mese, no? Come il sottosegretario al tesoro, quel Paolillo, come si chiama, che una volta scriveva su rivista marchesista, mi viene dalla storia, no? Scriveva su riviste, ma che negli anni 70, adesso lui è in pensione facendo il sottosegretario del tesoro e prende 1.200 euro al giorno di pensione. Però poi va da Santoro oppure a Piazza Pulita, ride, non dice un cazzo, fa sempre lo scemo, bisogna, qua abbiamo mantenuto il livello di vita più alto, bisogna tagliare, licenziare anche i pubblici dipendenti, però non parla di lui che si è già imbertato nel fienile, 1.200 euro al giorno, no? Di pensione, ogni giorno prende tre volte la pensione minima per ogni giornata, un pensionato ci vuole un mese, insomma, per chiudere. Io direi da mettere uno stacco musicale se Luciano è pronto. Poi parliamo un attimo anche della situazione dei lavoratori, perché insomma a noi ci interessa ancora maggiore, ed è la questione delle perdite di posti di lavoro, che c'è un rischio serio. Non a caso hanno fatto la legge sulla mobilità e licenziamenti dei pubblici dipendenti, non a caso ieri il vicepresidente della Confindustria in maniera pesante ha marcato, ha detto bisogna cominciare a licenziare i dipendenti pubblici, se no qua non usciamo dalla crisi, ecco. E dunque sono le 11:11 e mandiamo, come detto, una breve pausa musicale. Ricordiamo, insomma, l'argomento è appunto la creazione del Super INPS. Ne abbiamo parlato fino adesso, si è per lungo tempo praticamente spolpato un ente previdenziale, soprattutto dal lato del suo ingente patrimonio immobiliare, fino ad arrivare alla fase attuale in cui addirittura l'ente è stato disciolto, abbiamo capito quali sono le ragioni che attengono a questo tipo di operazione, quindi gli interessi anche degli istituti bancari che ci sono dietro, fanno gola, abbiamo detto la questione dei crediti, questo flusso di crediti concessi fino a oggi, insomma, anche a un tasso di interesse concorrenziale, e si è detto anche l'appalto relativo ai sistemi informatici. Lo sfondo di tutta questa operazione, però, si è detto, è chiaramente la questione della privatizzazione generale del settore della previdenza, e dunque ci riformano le pensioni, rischiamo di, per chi diciamo ne ha acquisito il diritto, di non arrivare mai alla fatidica età per raggiungere i requisiti e andare finalmente in pensione. Per le giovani generazioni questo discorso nemmeno si pone, perché così come prevedono gli attuali dispositivi di legge, probabilmente molti la pensione non la vedranno proprio. Il telefono, le linee sono aperte, 06 49 17 50, chiamateci per dirci cosa ne pensate in merito. Noi tra poco rientriamo e ci occupiamo invece degli esuberi dell'ex ormai disciolto INPDAP. Allora rientriamo in diretta per prendere una telefonata. Pronto? Pronto, mi senti? Sì. Ciao, senti, una domandina dubbio a compagno lì presente, no? Dato che si è parlato del passaggio dal regime retributivo a quello contributivo, che chiaramente si abbassa la pensione, ovviamente si vuole incentivare, se non addirittura obbligare per legge, al fatto dei fondi privati. È vera questa cosa oppure no? Certo. Sì, guarda, allora scusa che ti rompo, tra parentesi, tu sai benissimo che i fondi, diciamo, gestiti sia dai sindacati e sia non, già sono attivi da molti anni, mi sento, sì. Pegaso, sì. Che è un fondo che durava 5 anni e poi finiva, ma tendenzialmente poi si tende a moltiplicare questa tendenza per appunto andare a sopperire, e non a caso ovviamente alla pensione pubblica che è ampiamente defalcata. Sì. Ma mi sembrava di aver letto da qualche parte che addirittura si voleva estendere per obbligo il fondo integrativo privato. Questa è la richiesta ufficiale di Bonanni, che ha chiesto da mettere per leggere la trattenuta, l'iscrizione ai fondi privati. Sì. E questa operazione INPDAP, il scioglimento, questo mega ente, è in funzione, va su questa situazione. E ricordate che la legge l'hanno scritto il presidente e il CIV. Il CIV, ci sono i sindacati che lo presiedono, insomma, non è che nasce perché a Fornero si è inventata sta formula. No, beh, certo. Ecco, nasce perché c'è questo disegno. Portare gradualmente all'insostenibilità totale, perché tu sperperi tutte le risorse, come abbiamo cercato di spiegare, e poi dice: o te mangi sta minestra o te butti da finestra. Metodo Marchion, no? Ti arrivano alla condizione o questo o niente, che decidi? Ecco, il metodo Marchion che si sta attuando ormai su tutte le cose, pure adesso il governo convoca le organizzazioni sindacali in maniera separata, gli dice quello che vuole fare, ascolta le osservazioni, arrivederci e grazie, può decidere il governo. Il metodo Marchione, perché non siamo noi che possiamo decidere, l'ha detto apertamente ieri, ha detto perché è l'Europa che ci dice quello che dobbiamo fare. E le pensioni entrano dentro sta storia. Che non è vero, l'Europa chiede altre cose, insomma, sì. Non è questo. Se mi permette, e concludo poi, no? Il fatto del metodo Marchion, poi in realtà sono molti anni che va avanti, perché anche a livello qui, che io sono dipendente qui in un'azienda qui a Roma, no? Di quelle ex municipalizzate, quindi intuibile cosa potrebbe essere. I sindacali, diciamo, la triplice viene convocata, viene diciamo, si dice, guarda, noi abbiamo intenzione di fare questo, facciamo questo e vi rendiamo, come dire, edotti degli avvenimenti, punto e basta. E poi chiaramente gli unici che rimangono ad opporsi sono i sindacati base, quello che c'è presente in azienda, ecco. Guarda, allora la denominazione va da lontano, viene la, come dire, la trasfigurazione, la traslazione della concertazione, anzi l'annullamento stesso ormai è una realtà, ecco. Già la concertazione ovviamente era sbagliata, ovviamente, ma adesso si è passata alla consultazione, cioè ti dico faccio questo, punto e basta. Volevo rispondere in un altro modo, sì, alla questione che avevi posto all'inizio sulla obbligatorietà dell'adesione ai fondi pensione. Sì. Come diceva Ettore, Bonanni sta chiedendo pubblicamente da tutti gli schermi televisivi del paese, dei mezzi di informazione del paese, sta chiedendo l'adesione obbligatoria ai fondi pensione. Non so se qualcuno se lo ricorda o se è già passato in cavalleria il periodo in cui si diceva opzione sì, opzione no, il sì e il no al passaggio al TFR, e quindi la possibilità di optare per un sistema piuttosto che un altro. Oggi non ti danno più neanche questa possibilità, ti dicono no, devi aderire ai fondi pensioni, punto. Guarda, nei documenti ufficiali anche della stessa INPDAP addirittura si dice questa cosa, si racconta così: un'operazione di questo genere serve a trasferire il rischio pensione, il rischio futuro della copertura della vita futura a livello dei singoli, trasferendo il rischio appunto dallo Stato verso i soggetti singoli. Significa che il dettato costituzionale salta completamente, perché il sistema pensionistico pubblico è normato dal dettato costituzionale. Io la racconto così, insomma, che forse è più semplice da capire. Sì, direi proprio di sì, insomma. Va bene. E chiudo il fatto del silenzio assenso, vi ricordate, no? Certo, quella era la norma che regolava la possibilità. Sì, esatto, si era poi scoperto che le adesioni ai fondi, diciamo, alternativi all'INPS era pressoché nulla. No, la maggior parte della gente ha preferito lasciare i soldi all'INPS. E ovviamente l'INPS si quota in borsa. E quindi c'è tutto un disegno. Sono i famosi mercati, poi questi. Naturalmente va a regolare anche quello che sembrava non potesse essere regolato fino a qualche tempo fa. E vabbè, certo. Grazie, vi saluto. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Sì, peraltro, insomma, poi magari facciamo anche menzioni un po' alla vicenda dei fondi pensione, perché come possiamo ben notare, insomma, tutto si lega, e in proposito ricordiamo comunque come già, insomma, nel giugno del 2009 era come dato ufficiale il fatto che i fondi pensioni azionari bruciarono il 25% quasi dei soldi che gli erano stati affidati, tanto che il Corriere della Sera titolò l'anno nero dei fondi pensione. E insomma, a fronte di questi dati, che di certo non ha dato un giornale di tendenza sovversiva, insomma, oggi ci ritroviamo invece a fare i conti con un sistema generale che tende alla privatizzazione. E quanto si ricordava a proposito della prescrizione invocata da Bonanni, insomma, conferma questo tipo di tendenza. Ricordiamo il telefono 06 49 17 50. Noi facciamo un altro breve stacco e quando torniamo in studio lo faremo occupandoci della questione lavorativa. batte sul cemento. 11:30, siamo ritornati in diretta sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Ci stiamo occupando della questione del Super INPS, quindi della soppressione degli altri due enti della previdenza, e cioè ENPALS e INPDAP, quindi l'ente che si occupava della gestione della cassa previdenziale dei lavoratori dello spettacolo e quella dei lavoratori statali. Pubblici, certo, pubblici e statali. Siamo in collegamento con Stefania Beltrame, che è una lavoratrice INPDAP che vive una condizione peraltro particolare, perché si trova a risiedere all'Aquila, città già martoriata per questioni che tutti e tutte voi conoscete bene, e dunque alla sua situazione, diciamo, di possiamo dirlo, insomma, terremotata, si aggiunge anche quella abbastanza così come dire umiliante, in un certo senso, di dover sopportare l'esubero dal punto di vista lavorativo. Ciao Stefania e buongiorno anzitutto. Ciao, buongiorno a voi. Allora, ecco, crediamo, insomma, che in questi giorni e questa notizia certamente abbia turbato ulteriormente la tua situazione. Ecco, se ce ne vuoi parlare in prima persona. Sì, senz'altro. Allora, noi dell'INPDAP, con questa brutale soppressione, che come probabilmente avete già esaminato non è un accorpamento e quindi non ci garantisce pari dignità nel, così, nel transito verso questo superente, e abbiamo dovuto in qualche maniera affrontare anche situazioni particolari, perché in sede noi abbiamo tre condannati, diciamo, all'esubero, abbiamo tre qualifiche A. Di queste tre qualifiche A, due attualmente non hanno una casa propria perché l'hanno perduta durante il terremoto e quindi sono appoggiati in situazioni di così di le famose case di Berlusconi o altre situazioni analoghe che comunque non garantiscono la libertà, la dignità che si aveva prima del terremoto. Una delle nostre colleghe è vedova e ha due figli, e quindi potete immaginare come questa notizia ci sia arrivata nel momento in cui in città quello che viene chiamato il cantiere più grande d'Europa, in cui in realtà non si muove una paglia, noi abbiamo già pagato un prezzo altissimo con i commercianti del centro in particolare, che hanno perso la loro attività lavorativa, e con addirittura, spaventirlo, gran parte del personale dell'edilizia. Ci sono oltre 3.500 esuberi già nell'edilizia, come dico, nel cantiere più grande d'Europa, cioè dove diciamo dovrebbero invece essere ricollocati tutti quanti. Quindi la nostra città vive una situazione molto particolare, perché in un disastro di questo genere vede anche la cancellazione di una garanzia che viene da un ente pubblico che si occupa della cosa pubblica, del welfare in particolare, attraverso il quale è stato possibile in questi anni gestire i prestiti, gestire i mutui, gestire le vacanze studio per i ragazzi. Quindi in questo scenario, nel quale gli aquilani sono già fortemente indeboliti nella loro libertà prima di tutto, nella loro dignità prima di tutto, ma anche nella loro capacità economica, noi vediamo questa operazione in maniera veramente preoccupata, perché per noi è una grande una grande perdita, è un percorso che va verso una privatizzazione che può ulteriormente sacrificare la nostra città. Vogliamo dire e un'altra cosa, Stefania. Viene da questo. Vogliamo dire un'altra cosa, vogliamo dire per esempio che chi aveva il mutuo oggi è costretto a pagare e continuare a pagare il mutuo. Mi dai conferma di questa io cosa? Io posso parlare per me, perché io ho perso la mia casa in centro storico, ero a due passi da Piazza Duomo, ho lasciato la mia casa quella notte e non sono riuscita a rientrarci una volta sola il 20 giugno del 2009, dopo non sono più riuscita, la frattura che c'è dentro di me non si riesce in nessuna maniera a rimarginare, però io stando in questa casa dove non ho neanche un apparecchio radiofonico e quindi non vi ho potuto ascoltare fino adesso, devo pagare il mutuo, ho dovuto incominciare a ripagare il mutuo subito nel 2010 e quindi sto pagando un mutuo per una casa che forse non avrò mai più, perché ritengo che non avremo, io ecco, forse sono tra le più pessimiste all'Aquila, però ritengo che la ricostruzione pesante, la ricostruzione del centro storico non avrà una tutela dello Stato e quindi io ho potuto farmi una casa nella vita, la stavo ancora pagando, quello che è certo che non me ne posso fare due. E quindi probabilmente non avrò più la possibilità di rientrare a casa mia. Un'altra cosa, c'è stata l'assemblea all'INPDAP per cui voi avete partecipato, già questo dà il segno del vostro impegno, della vostra situazione. Fra chi ha partecipato, chi è venuto a Roma all'assemblea, c'era anche una collega che era in posizione di comando, giusto? Sì, questa è un'altra, e questa è un'altra situazione che si aggiunge. È un altro problema. Noi abbiamo tre colleghe in posizione di comando, adesso sto parlando solo della sede, perché poi comunque c'è anche la direzione regionale per noi. Parlo della sede, le colleghe che avevamo in comando in questo momento svolgevano attività di istituto in maniera veramente sostanziale e di qualità. Avevano acquisito competenze sulle materie in particolare pensionistiche assolutamente eccellenti, un'altra riceve il pubblico, quindi sta all'URP, quindi sta diciamo proprio sulla barricata. E per noi sarebbe insomma in questo transito perdere delle professionalità acquisite sarebbe veramente un dramma. Una cosa voglio sottolineare in questo senso. Noi già abbiamo subito una grande pressione, no, rispetto al lavoro, perché con diciamo l'interruzione del turnover il carico di lavoro che prima si divideva in 4-5 persone competenti, professionalizzate negli anni, noi abbiamo avuto colleghi che hanno lavorato 40 anni, se ne sono andati portandosi via il bagaglio di competenze, quello stesso carico di lavoro oggi ciascuno di noi lo regge da sola, da solo, e quindi non ci possiamo ammalare, siamo riferimento dell'utenza a nome e cognome, spesso ci chiamano sul cellulare, io sono in ferie e ieri ho ricevuto tante chiamate dell'utenza che aveva bisogno di qualsiasi cosa, noi stiamo facendo la restituzione per esempio dell'IRPEF, per 3 mesi i pensionati dovranno pagare con l'F24 e quindi questo ha comportato un aggravio fortissimo della circolazione dell'utenza all'interno della sede. Ebbene, come dico, ciascuno di noi ormai ha un carico di lavoro veramente pesante e il fatto che appunto ci siano tra di noi degli esuberi e comunque si pensi a rimandare a casa i comandati, per noi comunque rispetto alla mole di lavoro che comunque dovremmo portarci all'INPS è un vero dramma. È certo un dramma assolutamente comprensibile che si aggiunge a quello insomma catastrofico cui tu hai fatto menzione, Stefania. Noi ti ringraziamo per questa testimonianza e speriamo insomma che le assemblee a cui si è fatto cenno possano creare quel clima di unità che immagino possa servire insomma a chi lavora nel disciolto INPDAP per cercare di provare insomma a dare una sterzata dal basso a questa situazione, va bene? Grazie mille. Sì, io ringrazio voi, vi volevo dire a proposito della sterzata dal basso che come sede dell'Aquila noi abbiamo chiesto una manifestazione nazionale, perché noi ci sentiamo di portare proprio la carne dei nostri problemi a Roma. Perché come ho detto noi non siamo contrari a un transito ragionevole in un ente che davvero sia efficace, efficiente, ma non siamo disponibili a pagarlo. personalmente, non lo vogliamo pagare come lavoratori e come lavoratrici, non lo vogliamo pagare attraverso i sacrifici ulteriori che vengono chiesti alle nostre famiglie. Quindi in questo ragionamento noi ci vediamo anche una manifestazione nazionale. D'accordo, bene. Quindi ci riaggiorniamo quando ci d'accordo. Sarà anche questa manifestazione. Ciao, grazie Stefania. Ciao, ciao, buon ciao. Lavoro, ciao. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Rita. Ciao. Sono in diretta? Sì, sei in diretta. Ah, niente, volevo... Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Non sento più. No, no. C'è uno strano ritorno, almeno io c'ho uno strano sì, ritorno pure, in cuffia. Pure chi arriva. Proviamo a vedere se adesso tutto va per il meglio. Vai, vai.